conosco l'assassino di John Lennon e Rabin, è lo stesso che ha ucciso Martin Luther King. Gandhi, Gesù Cristo, Vittorio Arrigoni, è lui il volto scuro di una terra senza cieli. Agisce come una fionda, boomerang disperato, in nome di un Dio, una religione senza credo. Sputa negli occhi, sputa tutto il suo odio a chi meglio di lui ha dato, dato, dato, diciamocela tutta. Si uccide per paura di chi apre nuove strade, una nuova avventura. Ascolta il loro canto, la loro bella canzone. La morte non li ha uccisi, vive il loro cuore. Siamo tutti sordi, non siamo tutti ciechi. Dietro ogni assassinio ci sono sguardi muti di gente che giustizia per difendere interessi. Sporchi poteri sporchi, orizzonti indigesti. Vorrebbero far credere che è stato solo un pazzo. Allora perché tutti giusti finiscono in un pozzo? Uno dopo l'altro arrivano su questa terra e appena danno luce gli bruciano la stella, diciamocela tutta. Si uccide per paura di chi apre nuove strade, una nuova avventura. Ascolta il loro canto, la loro bella canzone. La morte non li ha uccisi, vive il loro cuore. Lui ci mette la mano, gli altri spingono in coro. A sparare è solo uno, ma ad uccidere è il mondo intero. Chiunque ama in pericolo, a rischio la sua vita. Ama e sarai ucciso, derisa la tua meta. Ha un nome ben preciso, la mano dell'assassino. Nasce dove l'odio sputa il suo veleno, dove ogni divisione divide ogni uomo, dove l'altro è sempre peggio, dove non c'è perdono. Diciamocela tutta, si uccide per paura di chi apre nuove strade, una nuova avventura. Ascolta il loro canto, la loro bella canzone. La morte non li ha uccisi, vive il loro cuore. Diciamocela tutta, si uccide per paura di chi apre nuove strade, una nuova avventura. Ascolta il loro canto, la loro bella canzone. La morte non li ha uccisi, vive il loro cuore.